Prendiamo due esempi dalla vita ordinaria che fanno da sfondo alle nostre riflessioni. Due uomini si salutano perché uno di essi parte per un paese oltremare. Hanno vissuto la loro fanciullezza giocando, hanno studiato assieme, hanno lavorato nella stessa impresa. I loro incontri erano caratterizzati da una serenità tipica di chi vive fianco a fianco. Nessuna esplosione di gioia o di espressione affettiva particolare aveva mai caratterizzato i loro incontri. La quotidianità dei loro appuntamenti non lo permetteva, e così un caloroso abbraccio li separa. Passano 20 anni. E i due uomini, ormai avanti di età, si ritrovano. Un urlo irresistibile di gioia esce dalla loro bocca. Un abbraccio lunghissimo li tiene uniti. Infinite domande ansiose per sapere come si è trascorso il tempo che li ha separati. Il giorno dopo, il solo pensare della lontananza che li aveva separati. Si abbracciano al primo incontro con espressioni di affetto caloroso. Il terzo giorno si ritrovano, dandosi come saluto la mano. E la loro conversazione ritorna ai ritmi ed emozioni normali. Due sposi vivono da anni il loro rapporto caratterizzato da espressioni affettuose solite di chi convive e che ama. Un gentile e affettuoso saluto, accompagnato da un tenero bacio sulla bocca, è la loro espressione giornaliera quando si separano per andare a lavorare e quando ritornano a casa. Gli abbracci sono morbidi e occasionali anche perché sono stati compensati nel periodo del loro fidanzamento e sono alla portata dell'occasione che desiderano. Un giorno la moglie viene rapita da malviventi e la minacciano di morte se non si paga un riscatto. Il marito è angosciato, afflitto. L'appetito è quasi scomparso, le notti sono insonne, il sorriso è diventato un ricordo. Il suo pensiero è continuamente preso dalla sua consorte. Ogni conversazione tende a indagare quando e se è possibile riavere sua moglie. Arriva il giorno della liberazione. I due sposi scrutano affannosamente tra la folla curiosa che accompagna la liberazione della donna, i loro occhi si incrociano, le loro braccia si tendono, le loro mani si aprono per ricevere il dono che sta davanti, si abbraccano con una santa violenza, si baciano e si ribaciano sulle guance e sulla bocca con impeto, piangono, sorridono. Per un periodo di tempo nessuno riesce a staccarli dalla loro stretta d'amore e di angoscia, mista ad un'indicibile gioia. Il giorno dopo, in casa, memori ancora della loro angosciosa separazione, si susseguono forti abbracci e calorose conversazioni. Il terzo giorno il loro rapporto si normalizza, conversano, si abbracciano, si separano e si baciano affettuosamente come un tempo. Tutto è ritornato nella norma. Questi due episodi della vita, non irreali, mettono in luce una caratteristica delle persone che, nell'ambito della fede cristiana, è certamente negativa. Essere cristiani significa camminare con Dio, nelle vie di Dio e vivere o morire per Dio. Ogni altra definizione di come deve vivere un cristiano non può allontanarsi da questa prospettiva. Quando l'esistenza di una persona è vissuta intensamente e rigogliosa, non piatta. Egli partecipa ad ogni situazione della vita con i suoi sentimenti, e per questo si troverà in momenti di gioia e di dolore, affetto e profonda avversione, preoccupazione e serenità, solitudine e compagnia. Queste alternanze e contrapposizioni di sentimenti e di situazioni danno sapore alla vita se non propriamente il senso. È impossibile concepire la vita senza obiettivi, impegni, lavoro, gioia e dolore. Queste emozioni non sono sempre uguali nella loro intensità, perché si normalizzano man mano che ci abituiamo ad essi. Tutti abbiamo provato una immensa gioia quando per la prima volta siamo saliti su di una bicicletta o saliti su di un treno. In seguito, la stessa esperienza ripetuta più volte ha calmato i nostri sentimenti. Nulla di sbagliato, ma sarebbe anomalo e dannoso per tutti provare la stessa intensità di sentimenti quando un'esperienza viene ripetuta più volte, tanto è vero che chi vive sempre sulle vette delle emozioni ha dei problemi psicologici. Perciò, mentre è normale vivere con intensità la propria esistenza, non è normale vivere la propria vita con la stessa intensità di sentimenti. Una moglie che pianga suo Marito morto, è normale, ma non è normale se il dolore provato al momento della perdita. L'accompagna con la stessa intensità ancora dopo 10 anni. Vivevo in un appartamento situato in un luogo dove non vi era il posteggio della macchina. Quando ho cambiato appartamento e sono andato a abitare in uno stabile dove ogni inquilino ha il suo posto macchina, la mia gioia è stata enorme, ma ora, dopo tanti anni, mi dimentico spesso di questa gioia. Dobbiamo ritenere la nostra esistenza terrena non livellata e i suoi alti e bassi fanno parte di un costante cammino giornaliero vissuto nella normalità e, come il monitor di un elettrocardiogramma che rivela costante alterazioni, ma segue comunque una linea ben precisa. Ogni alto e basso è normale se non rimane tale. Desiderare di vivere intensità spirituali è normale e giusto, ma rimanerci e non volere cambiare è fatale. Non tutti arrivano ad avere un incontro personale con Cristo mentre svolgono una normale attività della vita come Pietro, Giovanni, Matteo. Molti diventano figli di Dio quando hanno toccato il fondo della loro moralità come le prostitute che andavano a Gesù o hanno avuto esperienze demoniache come Maria Maddalena dalla quale erano usciti 7 demoni. Per una legge di compensazione che vige in tutto l'universo, queste ultime persone sono portate ad esprimere la loro riconoscenza a Dio in modo più incisivo e eclatante. Tanto è vero che quando Gesù guariva i bisognosi, l'evangelista Marco commenta così: e Gesù ordinò loro di non dirlo a nessuno. Ma quanto più lo vietava loro, tanto più essi lo divulgavano. Marco 7,36. Chi poteva trattenere la gioia di queste persone guarite? La stessa cosa succede ai figli di Dio quando escono da una esperienza negativa che li aveva fatti prigionieri. Nel pieno della loro gioia e riconoscenza, si presentano davanti a Dio con i loro fratelli con un entusiasmo particolare. Elevano preghiere ardenti. Da fare invidia che per una vita intera è stato alla presenza di Dio ed innalzano preghiere vere e sincere, ma non infervorate da nuove emozioni recenti. È sbagliato alzare preghiere ardenti. Non è lecito dimostrare la propria riconoscenza con una intensità di sentimenti elevata. Per nulla è sbagliato, come non è sbagliato ritrovarsi con un amico dopo 20 anni salutandolo con fervore, o abbracciare la moglie che è stata rapita con un ardore mai avuto. Questi profondi vortici di sentimenti fanno parte della vita. Sono la vita stessa. L'errore fatale sarebbe voler vivere in seguito con la stessa intensità di emozioni. Così, un figlio di Dio che ha avuto una bella esperienza con il suo Salvatore non può pretendere di vivere da quel momento in poi sull'onda delle emozioni suscitate da una recente liberazione, perché tale ricerca gli sarà fatale. Senza rendersene conto, le emozioni, gli entusiasmi diventano il suo metro di spiritualità. Penserà che esprimere la sua riconoscenza a Dio in modo normale, come un marito e moglie che si danno un bacio senza tanti trasporti, sia una mancanza di amore o di spiritualità. Vivere normalmente la propria vita spirituale, pregare con un tono e parole che fanno parte della quotidianità, gustare la presenza di Cristo come esperienza consueta, diventa, per chi arde di novità e di vette spirituali, un segno di mancanza di spiritualità. La sfida più grande dei cristiani è rimanere costanti. È più facile cadere da un estremo ad un altro che rimanere costanti nel nostro agire quotidiano. Camminare con Dio significa mantenere un normale agire in parole ed opere. Certo, è vero che camminare con Cristo significa passare nella valle dell'ombra della morte come trascorrere un periodo sul monte Tabor e vederlo trasfigurato. Nulla è piatto. Non vi è vita più movimentata di quella cristiana. Ma queste esperienze, questi sbalzi, dai momenti più belli ai momenti più drammatici, fanno parte della normalità della vita cristiana. Certe esperienze non si cercano ma vengono. Volere vivere a tutti i costi entusiasmi spirituali particolari spesso diventa una fuga dalla realtà e rivela cose nascoste. Due amici che si abbracciano impetuosamente mostrano che vi è stato qualcosa in precedenza che ha cambiato il loro rapporto di amicizia, come una separazione o una lite risolta. Due sposi che si abbracciano e si baciano appassionatamente in pubblico rivelano che la loro relazione matrimoniale non era quella di prima. L'atteggiamento non normale è un segnale indicatore. Questa legge vige anche nel campo spirituale. Credenti che urlano costantemente alla presenza di Dio, che compiono costantemente gesti che non appartengono alla normale espressione della comunità, rivelano i loro problemi nascosti di rapporto con Dio e con gli uomini. È vero che Davide ha danzato per l'allegrezza davanti a Dio e per questo è stato schernito, ma in seguito non si è sempre comportato così. E la costanza dell'eccesso, che è da mettere in discussione, mentre la costanza di una espressione normale, religiosa e civile, rivela la maturità psicologica e spirituale. Alcuni credenti sono capaci per un periodo di tempo di grandi cose che umiliano anche i più fedeli a Dio, ma poi, per mancanza di costanza, arrivano perfino a rinnegare la fede. Altri, che nei primi anni della loro vita in Cristo leggono continuamente la parola di Dio, testimoniano con un fervore eccezionale, danno esempio in tante cose, ma per mancanza di costanza in seguito leggono la parola di Dio saltuariamente, non testimoniano della loro fede, vivono ai margini della Chiesa. Leggiamo nella parola di Dio che per fede Mosè lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Ebrei 11 e 27. O come dice il testo greco, per tutto il tempo che Mosè stette saldo, vedeva colui che è invisibile. Se Mosè divenne un uomo di Dio, è perché restò costante nel proprio vivere ogni giorno in modo normale con Cristo. Egli ha avuto delle esperienze con lui, che nessuno ha avuto, ma di queste non ne ha fatto una ragion d'essere, e la sua costanza nel ritenerle non indispensabili lo ha premiato. Dicembre 2004. Ellero.